Il punto di Stefano Folli. Sulla crisi in Crimea l'Europa ci ha trovato modo di dividersi in due campi, da una parte Gran Bretagna e Francia vicine agli Stati Uniti e decisi quindi a non partecipare al prossimo G8, dall'altra la Germania propensa a mantenere aperto un filo di dialogo con Putin, dialogo che naturalmente il presidente russo, essendosi già preso la Crimea, ha tutto l'interesse a condividere. Giocano in questa differenza enormi interessi non solo politici ma geoeconomici e non stupisce in fondo che l'Italia aderisca alla linea di Berlino piuttosto che a quella di Washington. Messo brutalmente di fronte alla sua prima crisi internazionale, il nostro giovane governo ha soprattutto il problema di non commettere errori irreparabili. Il pragmatismo di Angela Merkel è attraente per la nostra politica estera e in questo caso gli interessi economici italiani e tedeschi sono simili. Meglio il basso profilo in questa fase. Appoggiarsi alla Germania per una squadra inesperta è la scelta più facile ma anche la più logica. Del resto Obama è stato preso ancora una volta in contropiede e si vede.